ascolti questa musica, ma non ti accorgi che non fa bene, non senti, non vedi che non inchiodato a una favola e non capisci che ti fa male, non senti, non vedi che non va. Potesse sempre capire, non vedi, non senti che non va, che non va. Ti accorgi che non fa.